Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. In questi giorni si parla di navi e di porti per ragioni che tutti voi conoscete bene, riferimento naturalmente alla tragedia della Concordia, la nave di Costa Crociere naufragata sulle coste dell'isola del Giglio. Anche noi questa sera vi parleremo di porti, ma decisamente da un altro punto di vista. Parleremo infatti di porti intelligenti. Che cosa significa? Beh, insomma, sapete tutti che le grandi città portuali vivono da sempre la sfida di coniugare un'attività che è portatrice di grande ricchezza ma anche caotica e invasiva come quella del traffico merci e anche dello spostamento dei passeggeri con un'altra necessità, quella di mantenere una qualità della vita accettabile in città. Oggi poi la sfida è più complessa che mai perché anche il contesto è quanto mai competitivo. Una prima definizione che può venirci in aiuto per capire però un po' più esattamente l'orizzonte verso il quale ci muoviamo ce la fornisce Francesco Nerli, che è presidente di Assoporti, associazione di cui insomma il nome dice già tutto, che ci parla tanto per cominciare di porti di terza generazione. Sentite. Quando si parlava di porti di prima generazione si intendeva i porti dove c'era solo la movimentazione, diciamo, delle merci. Quelli di seconda generazione facevano molta attività anche industriale e commerciale, quindi aggiungevano un valore. Quelli di terza generazione è, diciamo, il terziario avanzato dentro le varie modalità che in un porto si svolgono, quindi un valore aggiunto che va oltre il semplice cambio di modalità, diciamo così, dalla nave agli altri, i servizi che si rendono. Voi parlate di una produzione di massa personalizzata come orizzonte verso il quale guardare. Sì, quando si pensa che quando si movimentano le auto, ormai si manipolano dentro il porto dall'applicazione di tutta una serie di elementi aggiuntivi che vengono richiesti dal mercato e così via dicendo. Oppure posso fare l'esempio per le autostrade del mare, tutta l'assistenza di tipo turistico rispetto al territorio che è già insita ormai lo dico con una brutta parola, ma nella movimentazione del passeggero e del turista, per cui chi gli offre il servizio offre un servizio che va al di là di averlo portato in quel porto, ecco. Insomma, oggi una grande città portuale deve essere in grado di movimentare in sicurezza quanta più merce possibile, garantendo la massima tracciabilità delle merci, e qui entra per esempio l'informatica, di cui questa sera non parliamo, e l'altro aspetto fondamentale è il minimo impatto ambientale sulla popolazione residente. Ecco, questa insomma potrebbe essere proprio una buona definizione di intelligenza in versione portuale, diciamo così. Una buona metafora del porto invece può essere quella del formicaio, perché dico questo per dire che il porto è qualcosa di simile a un organismo vitale, quindi altrettanto sensibile alle perturbazioni. Metterci le mani dentro può provocare vari sconquassi. Per questa ragione diverse aziende si stanno attrezzando per fornire delle soluzioni complessive, cioè che partano da un'analisi appunto dell'attività portuale nel suo complesso per poi mettere a fuoco gli interventi da fare. Le soluzioni quindi che vengono fuori sono anche queste complesse, ma ci sono due aspetti che tornano veramente molto spesso. Del primo di questi ho parlato con Federico Golla, che è amministratore delegato di Siemens, società ben nota che è attiva in questo settore, quello delle infrastrutture portuali. Sentite. Una delle soluzioni che stiamo sviluppando sul tema energetico e ambiente è quella della elettrificazione navi in banchina, navi in fase di scarico, oppure siano ancora peggio esse navi in bacino di carenaggio per riparazioni e manutenzioni. Noi sappiamo che i motori non si possono mai spegnere a meno che non ci sia un'elettrificazione delle banchine. Perché normalmente le navi si producono da se stesse l'energia elettrica di cui hanno bisogno per l'operazione in porto, no? Esattamente, il potere spegnere i motori durante il soggiorno in porto produce abbattimenti di CO2 superiori al 30-35% e quasi vicini al 97% in biossido di azoto. Oltre a questo c'è un abbattimento sostanziale dell'inquinamento di rumore, perché i motori in perenne attività ovviamente producono anche inquinamento acustico. Eh sì, certo. Insomma, viene prodotta energia con una qualità superiore perché si usa un sistema centralizzato invece che tanti sistemi di bordo, diciamo. Ma la difficoltà qual è? Perché a un certo punto uno potrebbe dire, vabbè, ma che ci vuole? Io tiro un po' di cavi lungo la banchina, attacco la presa, però forse poi non è così facile. No, non è così facile, la tecnologia la tecnologia non è così semplice, bisogna creare delle sottostazioni sulle banchine, bisogna avere delle grandi prese, delle mega prese per collegare gli apparati di bordo. Bisogna tener conto che le navi normalmente lavorano con frequenze 60 Hz, che non è la frequenza di rete. Della rete italiana, quindi necessitano dei convertitori di frequenza, quindi la soluzione è possibile, è nota, ma ha alcune complessità tecnologiche. Prima regola, quindi: senza banchina elettrificata il porto, insomma, tanto intelligente non è. E qui potremmo fare un discreto elenco di porti italiani che stanno lavorando per risolvere questo tema. L'altro aspetto che invece è assai più dolente riguarda il trasporto ferroviario, che da noi non è una novità, soprattutto quello merci lascia un po' a desiderare. E su questo tema torna la voce del presidente di Assoporti, Nerli. Ascoltiamo. È chiaro che il problema del sistema ferroviario relativo alla movimentazione delle merci, quindi anche allo sviluppo di una logistica ferroviaria, è uno dei temi principali sulla competitività dello stesso sistema portuale. Perché io ne faccio solo un paio di esempi: da noi oltre il 90% delle merci viaggiano su strada, se le prende Rotterdam su strada ci va il 57% delle merci. E ad Amburgo, che ne so, fanno quasi il 30% su ferrovia, e se prende Genova siamo sotto il 10%. Le faccio un altro esempio: noi ormai i costi di movimentazione delle merci nei porti sono non solo competitivi con Nord Europa, ma forse addirittura più bassi. È che poi trasportarla a destinazione, ecco che si impatta in una logistica stradale ferroviaria inadeguata. Beh, insomma, certo, tutto questo è inutile se a tanta intelligenza di sistema e a tanto software non corrisponde un minimo di intelligenza umana, come le drammatiche vicende del Giglio di questi giorni ci ricordano. Noi ci fermiamo qui, appuntamento a domani.